24 mattino. Ed eccoci di nuovo, le 7:19 e 30 secondi. È la seconda parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia, la parte dedicata alla rassegna stampa. I nostri contatti 349-238-6666, gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio. La diretta su Facebook, ci potete seguire anche là, potete commentare anche là se volete. Instagram, Twitter, l'email, ormai sapete tutto, è 24mattino@radio24.it. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, con la rassegna stampa, un'occhiata ai quotidiani di oggi. E iniziando, come sempre, dalle aperture. Alcuni si dedicano alla sentenza, alla decisione della Corte Costituzionale sul referendum proposto dal centrodestra per il ritorno al maggioritario. Il proporzionale più vicino, titola il Messaggero. No al referendum della Lega, titola il Corriere della Sera. Schiaffo a Salvini, referendum schiaffo a Salvini, titola la Stampa. Consulta e sardine due sberle a Salvini, titola il Fatto Quotidiano. La candidata al Quirinale affossa la legge che può rovinarle i piani, è il titolo della Verità, facendo riferimento alla neo presidente della Corte Costituzionale. Autostrade, ultima offerta, è il titolo del quotidiano La Repubblica, su quel che dicevamo poco fa, la proposta di 1000 assunzioni e lavori per 7,5 miliardi. Vogliono l'immigrazione libera, è il titolo di Libero, il Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo ha votato il Global Compact. L'apertura del giornale è su Elisabetta Gregoraci. Donna di destra, la Gregoraci fuori da Sanremo, la subrette, io fatta fuori dal dopo festival per motivi politici, sostiene. Clima, fare presto, è l'apertura di Avvenire. Industria europea, rivedere le regole sulla concorrenza, è il titolo del Sole 24 Ore ed è tra virgolette perché è un'intervista a Thierry Breton, il commissario europeo al mercato unico, difesa e spazio, che chiede, parla di una revisione delle regole antitrust. E per chi vuole la Gazzetta dello Sport, l'Inter si fa in quattro, oggi Young sbarca a Milano, Spinazzola Politano si tratta, insomma il tema, il mercato interista. Iniziamo come sempre però da qualche notizia un po' diversa, che peschiamo dai giornali qualcosa di particolare, e devo dirvi che stamattina praticamente ridevo da solo mentre leggevo questa storia che ci racconta il Fatto Quotidiano a pagina 4, ed è lo strano caso dei gemelli al comizio. Siamo in Calabria e guardate che la storia è stupenda, la racconta Lucio Musolino. Le campagne elettorali sono pesanti, le regionali in un territorio come quello calabrese lo sono ancora di più se sei un candidato impegnato per conquistare un seggio a Palazzo Campanella. Occorre il physique du rôle, o almeno un gemello che ti sostituisca a Crotone per salire sul palco del comizio accanto a Matteo Salvini. Il tutto mentre tu continui la ricerca di voti sul tuo territorio. Stando a quello che scrive il sito del Corriere della Calabria, la trovata geniale di Leo Battaglia, candidato della Lega alle elezioni del 26 gennaio. Il leghista calabrese infatti avrebbe sfruttato il gemello Francesco Battaglia per ottimizzare i tempi di una campagna elettorale troppo corta, avendo a disposizione praticamente il suo sosia, che tra l'altro è consigliere comunale a Castrovillari. Leo Battaglia è riuscito a dare la sensazione di godere del dono dell'ubiquità, un valore aggiunto rispetto agli altri candidati della Lega che il 10 gennaio non hanno potuto scegliere se rimanere nella zona del Cosentino a caccia di voti o presenziare a Crotone, dove Salvini ha presentato le sue liste. Un problema che Leo Battaglia non si è dovuto nemmeno porre. E siccome al Consiglio regionale si entra con i voti e non con i selfie, all'evento di Crotone, sul palco con Salvini, il candidato Leo Battaglia avrebbe mandato il gemello Francesco. Chissà se è vero, ovviamente l'interessato smentirà, però insomma la storia appare molto divertente, da verificare ovviamente, ma divertente. Verifiche sono in corso invece dopo la vicenda, la ricorderete, poi ne abbiamo trattato anche qua, a 24 mattino abbiamo avuto ospite la ex ministra Elisabetta Trenta. Verifiche sono in corso sugli alloggi dei militari. Molti di voi ci avevano segnalato, attenzione, il caso della Trenta che pagava, lo ricorderete, un affitto ridicolo per un appartamento vicino a San Giovanni in Laterano a Roma, un appartamento da 180 metri quadri con tanto di box, e questo affitto aveva continuato a pagarlo nonostante avesse lasciato l'incarico di ministro della difesa, perché aveva fatto passare il contratto, di fatto questa assegnazione di un'abitazione l'aveva fatta passare a suo marito, e però le verifiche sono in corso e sarebbero 3600 le case del ministero della difesa occupate abusivamente. C'è chi è rimasto nell'appartamento nonostante sia stato congedato, racconta Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera a pagina 15. E chi lo ha ceduto ai figli oppure alla moglie? C'è chi è stato trasferito e ha continuato a tenere la casa in vista di un possibile rientro. Chi è andato in pensione e non l'ha lasciata. Sono i militari che, nonostante non abbiano alcun titolo, continuano a mantenere l'alloggio di servizio. Case sparse in tutta Italia, la maggior parte in zone di pregio, che la difesa non riesce a liberare. E questo, nonostante altri appartenenti alle forze armate ne abbiano diritto. La maggior parte utilizza lo stesso escamotage dell'ex ministra Elisabetta Trenta, che aveva trasferito il contratto al marito. Altri sfruttano i ritardi nei controlli. Su un totale di 16.500 immobili, sono circa 3.600 quelli finiti al centro dell'inchiesta della Procura di Roma. E come fanno? Come fanno a mantenere questi immobili? Alcuni di loro non avrebbero effettuato la comunicazione agli uffici competenti, nascondendosi dietro la giustificazione di aver creduto che toccasse all'amministrazione effettuarla. E qua va detto, insomma, qua anche un'amministrazione che non effettua le verifiche, insomma, non è che vada particolarmente bene. Ci sono poi dipendenti civili, spesso trasferiti in altri ministeri o addirittura non più al servizio dello Stato, che hanno sfruttato le carenze dei controlli. E poi, ovviamente, ci sono anche le attestazioni false. Quelle non mancano mai. Ci spostiamo a Foggia. Sul tema di Foggia e su questi continui attacchi, attentati veri e propri messi in atto dalla criminalità organizzata, beh, ci sono molte pagine sui giornali. La cronaca più ampia forse la troviamo sulla Stampa, pagina 14, la firma Grazia Longo, e racconta appunto di quest'ultima bomba. Ne avete sentito, ne abbiamo parlato anche in GR24, una bomba che esplosa nella notte davanti a un centro anziani. I proprietari Cristian e Luca Vigilante dicono: ci chiedono il pizzo ma noi non ci pieghiamo, qual è la loro colpa? Sono presidenti e presidente Luca e Cristian sono presidente e direttore del personale della società, e sono parte lesa nel processo contro i vertici mafiosi arrestati nel 2018 nel contesto dell'operazione Decimazione a carico di 29 persone. Il ministro dell'interno Luciano Lamorgese ha annunciato l'invio di un contingente straordinario di forze di polizia, e poi sarà attivata anche la sezione operativa della direzione investigativa antimafia. E bene fa il Corriere poi a dedicarci un ulteriore pagina, pagina 17, nel quale ricostruisce un po' tutta la storia di queste di questi attacchi e di queste intimidazioni, minacce, negozi incendiati. Così i clan di Pizzolandia ottengono i soldi e l'omertà. Nel 2019 gli attentati sono stati il 4 e il 6 gennaio a una friggitoria, il 7 gennaio una profumeria, il 24 gennaio in un negozio di estetica, ancora il 25 gennaio in un emporio cinese, il 30 gennaio al centro commerciale Euronics, il 9 marzo tre attentati intimidatori ai danni dei calciatori e dei dirigenti del Foggia, e ancora bombe di nuovo in una friggitoria, e poi dall'inizio dell'anno anche un omicidio, l'omicidio di Roberto D'Angelo, il primo omicidio in Italia nel 2020, un clima che dura dagli anni 90, da quando Foggia, racconta Michelangelo Borrillo, inviato in città, era conosciuta con ben altro orgoglio per chi vi è nato come Zemanlandia, per le gesta della sua squadra di calcio. Nel 90 e il 92 due imprenditori, Nicola Ciuffred e Giovanni Panunzio, si opposero al pizzo e pagarono con la vita, così tutti capirono come ci si doveva comportare per non avere problemi. E dunque una questione di forza dell'ordine sul territorio, ma anche una questione di paura della gente, di paura a denunciare. Il quotidiano La Nazione fa un'operazione niente male, perché ritorna sulla vicenda della quale abbiamo discusso direi quasi all'infinito, la scuola di Roma, quella che ha messo online l'indicazione sul ceto sociale al quale appartengono gli studenti di ogni singolo plesso scolastico, ceto medio basso, ceto alto, ceto medio, eccetera eccetera, e scopre che in realtà nelle descrizioni delle scuole e questa cosa è molto più diffusa di quanto non sembri. Il titolo del pezzo a pagina 2 è "In questa scuola niente Rom", e si vanno a vedere le scuole proprio sul territorio, e sul territorio toscano in particolare. Ecco che invece a Firenze, alla secondaria di primo grado Masaccio, non ci si scompone troppo nell'affermare che non sono presenti studenti nomadi. Affermazioni sconcertanti anche a Ladino Compagni, si legge nel pezzo di Lettera Gullè, altra scuola di un quartiere da sempre considerato bene. In questo caso si sottolinea che i figli dell'alta borghesia della zona negli ultimi anni studiano accanto ai ragazzi delle colf impiegate nelle belle case del quartiere. Per un'altra scuola si sottolinea che nella maggioranza dei casi gli studenti sono figli di professionisti, e anche gli studenti di origine cinese provengono da famiglie di imprenditori che trovano molto congeniale la presenza del semiconvitto, come dire, immigrati sì, ma di livello. E poi ci sono anche esempi positivi come quello dell'Istituto Niccolini di Ponsacco, il quale parla di incontro con diverse culture che avviene all'interno delle classi, arricchisce gli alunni e li rende più consapevoli della dimensione sociale nella quale sono inseriti. Queste descrizioni, come si diceva, sono descrizioni facilmente raggiungibili dai genitori, magari non sono direttamente sul sito internet della scuola, però sono nella descrizione che la scuola fornisce di se stessa e deve fornire al ministero, e sono ben più diffuse, appunto, ci racconta La Nazione, di quanto non si creda. Lo diciamo prima, aprirà un dibattito quantomeno questa scelta delle scuole calcio, questa scelta della federazione scozzese che sta arrivando, della quale ci racconta il giornale a pagina 19. Il pezzo lo firma Andrea Cuomo. La Federcalcio scozzese, prima in Europa, vieterà i colpi di testa ai bambini sotto i 12 anni. Il rischio è che provochino danni al cervello. Niente colpi di testa, siamo scozzesi, scrive Cuomo, e siamo giovani. Il paese di Macbeth, i calciatori under 12 potrebbero essere costretti a giocare soltanto raso terra, in seguito a un provvedimento che la Scottish Football Association si appresta a varare per tutelare la loro salute. Tutto nasce da uno studio pubblicato qualche mese fa della Stirling University di Glasgow, che disegna una patente correlazione tra la salute dei calciatori e il gesto tecnico del colpo di testa. Uno studio condotto su oltre 7.000 calciatori professionisti nati tra il 900 e il 1970 ha evidenziato che gli eroi del pallone soffrono di una maggiore incidenza di malattie neurodegenerative o collegate al moto neurone, come la SLA, una vicenda della quale, come sapete, ci eravamo già occupati, e dunque starebbe arrivando questo provvedimento per quanto riguarda i calciatori, soprattutto under 12, soprattutto nelle scuole calcio. Uno spunto e un elemento di riflessione che sicuramente ritornerà. Una pausa. Mattino. Ed eccoci di nuovo, ci scrive un ascoltatore: la descrizione della provenienza sociale degli alunni è molto diffusa, perché richiesta obbligatoriamente dal Ministero nel rapporto di autovalutazione. Sì, l'abbiamo accennato forse non così esplicitamente prima, detto ciò è tutto estremamente facilmente accessibile anche dal pubblico, evidentemente, se La Nazione ci ha fatto questa pagina. Comunque, il tema incredibilmente resta, nonostante se ne sia parlato all'infinito ieri. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci. Buongiorno, eccoci qui. E buon venerdì. Iniziamo dalla Consulta, iniziamo dal Sole 24 Ore, la cronaca qua è di Emilia Patta, il no della Consulta alla Lega, e di fatto si va avanti sul proporzionale, si va verso un proporzionale. Eh sì, le giuste proporzioni, titola esultante Il Manifesto, che fa sempre dei titoli così di grande giochi di parole in prima pagina, e si torna al proporzionale. Hai detto giusto, l'articolo di Emilia Patta lo mette già nel titolo, sempre sul Sole 24 Ore, E ancora Emilia Patta intervista un ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, che spiega i motivi, dice scelta comprensibile, e nella sua nota Lina Palmerini sostiene acutamente che Salvini userà questa bocciatura negli ultimi giorni di campagna elettorale in Emilia, perché dirà: vedete, qua ci vogliono impedire in qualsiasi modo di andare alle urne anche con un referendum. E effettivamente questa scelta è una scelta importantissima. Oggi è un giorno da ieri, il giorno in cui è avvenuto, giovedì 16 gennaio 2020, si annullano 29 anni, tanti ne sono passati dal primo referendum di Mario Segni del 1991, in cui l'Italia sembrava per gradi aver scelto la via del maggioritario. Il maggioritario, non, adesso non voglio parlare di sistemi elettorali, ma è quel sistema per cui si sa chi governerà la sera delle elezioni. Il proporzionale è quel sistema che assegna a ogni partito seggi in Parlamento nelle proporzioni del voto che ha ricevuto, e poi quindi si vota, poi i partiti vanno in Parlamento e si mettono d'accordo lì, magari anche in 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi, sono paesi dove sì, c'è stato un anno senza avere il governo, si mettono d'accordo su chi sarà a governare, poi queste maggioranze sono molto instabili. Sì, un proporzionale tra l'altro che testimonio dalle interviste che abbiamo fatto anche nelle settimane scorse con Maria Latella, in realtà non piace a nessuno, ma tutti poi finiscono per votare all'interno, quantomeno all'interno della maggioranza. No, piace ai partiti, perché sì, mentre il maggioritario delega agli elettori la decisione suprema, chi governerà, si capisce quando. È come in America, quando la sera delle elezioni si sa chi andrà al governo e chi andrà all'opposizione, mentre invece così i partiti hanno mano libera in Parlamento e possono decidere un po' quello che gli pare. Tutti i giornali fanno considerazioni su questa vittoria degli anti-salviniani, perché poi così va interpretata. Salvini ieri ha preso una brutta botta prevedibile da parte della Corte Costituzionale. Sì. E però dall'altra parte no, si è mostrato in un'altra veste, no? In una veste nuova. Da qualche parte ho letto il titolo, dalla felpa al doppio petto, non ricordo esattamente dove. Insomma, in questa conferenza sull'antisemitismo da lui stesso promossa. Beh, questa è una cosa molto importante, la mossa del leader leghista, nemici di chi è contro Israele, leggo Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, che ha fatto una grande conferenza internazionale Salvini sull'antisemitismo. Gli ebrei italiani prudentemente si sono tenuti da parte e hanno detto: vediamo, le comunità israelitiche, vediamo, giudichiamo, aspettiamo. Ma ci sono personalità grandissime, una dico un nome per tutte, Dory Gold, che fu ambasciatore israeliano all'ONU, è una personalità di primissimo piano in Israele, che hanno accolto l'invito di Salvini e sono andati alla conferenza, lo hanno lodato, non solo Dory Gold, ma Dory Gold lo cito perché rilascia un'intervista a Maurizio Caprara sul Corriere della Sera e dice: quando qualcuno ci tende la mano è giusto collaborare. Quindi ieri Salvini ha ricevuto una botta, l'ho già detto, in politica interna, lo mette bene in risalto Stefano Folli in un articolo di commento su Repubblica, ma ha ricevuto, ha segnato un punto in politica internazionale, nella sua immagine di fronte al mondo, perché questa conferenza è veramente un unicum. Perché ho recuperato finalmente dove avevo visto questo titolo che rispecchiava un po' il ragionamento che stavi facendo, ed è Marcello Sorgi sulla Stampa, è doppio petto al posto della felpa, è il commento di prima pagina che poi gira a pagina 25 e parte esattamente dalla Consulta e chiude dicendo proprio questo, no? Per questo Salvini continua a comportarsi quasi come se nulla fosse, lavora alla ridefinizione della sua immagine di candidato premier, nella quale questa conferenza sull'antisemitismo è chiaramente un elemento importante. a proposito di Salvini, che resta al centro della scena, c'è la questione della piazza di Bibbiano, e le tue amiche sardine, caro direttore, che si prenotano, si prenotano la piazza di Bibbiano. Le sardine sembrano, almeno questo è il titolo di prima pagina del Fatto, sembra che abbiano soffiato la piazza di Bibbiano, piazza simbolica, perché a Bibbiano c'è stato quello scandalo che ha messo in difficoltà il centro-sinistra, non ne abbiamo parlato più volte, è inutile starlo a riepilogare. Volevano andare a fare lì il comizio finale il centro-destra, il partito della Bargonzoni, e invece sembra che gliel'abbiano soffiato le sardine. Allora c'è uno scontro nei giornali, in primo luogo il Fatto, e dice viva le sardine che impediscono a Salvini di andare a fare il comizio finale nella piazza di Bibbiano, e sono i giochi della politica. Insomma, la politica in quest'ultima settimana si consente anche di giocare. Hai visto per caso le notizie su Sanremo? Sì, certo. Beh, incredibilmente il giornale dedica l'apertura alla vicenda di Elisabetta Gregoraci, no? Che... è questo che mi ha colpito. Sì, sì. Elisabetta Gregoraci, che è l'ex moglie di Briatore, una famosa soubrette, sostiene di essere stata eliminata non dal festival, dal dopo festival, perché è di centrodestra. E anch'io sono rimasto di sasso quando stamattina ho visto il grande ancora di più perché è l'ex moglie di Briatore, capito? Per questo. E quindi, dato che Briatore è considerato di destra, per questo sarebbe stata esclusa. Questo è il... È pazzesco. E comunque il giornale, ripeto, secondo me ironicamente, almeno spero ironicamente, ha dedicato la prima pagina. Altri giornali hanno dedicato sempre titoli politici o di genere a Sanremo, perché Amadeus ha detto che si è circondato di belle donne, e questo ha fatto insorgere molte donne commentatrici di giornali dicendo che Amadeus è un sessista. Però fin lì ci siamo, nelle pagine classiche polemiche per Sanremo. Però il titolo di testata da parte del giornale oggi ti ha colpito, vedrai che non passerà inosservato. Ti ha colpito, traffico. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. Iniziamo dal 2038, che è l'anno nel quale ci racconta Tonia Mastroboni su Repubblica, pagina 36, ma se ne parla anche sulla Stampa, pagina 8, la Germania dovrebbe uscire definitivamente dal carbone. Molto spazio ai temi ambientali oggi sui quotidiani. Sì, grande spazio, gioco di parole anche qua nel titolo dell'articolo di Roberta Miraglia sul Sole 24 Ore. Carbone auf Wiedersehen, svolta verde in Germania. Chiuse già nel 2020 le prime centrali, accordo tra il governo e Länder sui risarcimenti. Circa 40 miliardi andranno alle regioni più interessate e 4 miliardi agli operatori. Beh, insomma, è una svolta di non poco momento. Berlino fa da apripista, adesso è l'articolo di Walter Raue, quello che hai citato tu a pagina 8 sulla Stampa, per il New Deal verde, subito via al carbone, la Germania accelera sulla riforma ambientalista entro il 2020. Ecco un paese che passa rapidamente dalle parole ai fatti. Anche noi abbiamo avuto grandi annunci in Italia quando è nato questo governo, che avremmo fatto una svolta verde ambientalista. Adesso erano occupati prima con la finanziaria, sì, poi con le elezioni in Emilia domenica prossima, non quella che viene, quella successiva, ma io mi aspetto che passate le elezioni in Emilia si passi anche dalle parole ai fatti, cioè un piano come quello tedesco, ambizioso, e con la cosa che più mi ha colpito è che le prime tappe sono nel 2020, cioè non un piano per il 2025 quando gli attuali governanti non ci saranno più, ma un piano che possa essere verificato subito di qui all'estate o di qui all'autunno massimo, sì, ripeto, non un piano di quelli dei sogni, i cosiddetti piani dei sogni. Segnalo che qua c'è anche l'apertura di Avvenire, che il cui titolo è Clima, fare presto, e l'altra questione, Paolo, mi sembra il fatto che il mondo dei privati e il mondo della finanza entra dentro tutto questo, lo fa Intesa San Paolo che ieri ha presentato, Intesa che ieri ha presentato un piano da 50 miliardi per gli investimenti, lo racconta Luca Davi sul Sole 24 Ore, così come sul Sole 24 Ore Riccardo Barlam da New York racconta come, insomma, con la mossa di BlackRock dell'altro giorno, questo è il più grande gestore del mondo, che dice, insomma, inizieremo a occuparci di investimenti sostenibili, insomma, no? Richiederemo alle aziende nelle quali mettiamo i soldi, come dire, di rispettare determinati standard, insomma, sta cambiando un po' il clima, viene da dire. E certo, perché chi come noi segue le notizie economiche sui giornali sa che le aziende se lo aspettano, perché non è solo la Germania, ma tutto il mondo sta mettendosi su questi binari, per cui hanno piani, sono pronte, le aziende sono pronte a farsi, aziende intendo banche, non solo fabbriche, aziende di fabbriche, ma aspettano solo che il governo, che il potere politico presenti dei piani con cui mettersi in connessione. Fai bene tu a citare questi esempi, sì, trovati in articoli sul Sole 24 Ore, e per questo ripeto, mi aspetto che la smettano dopo il 26 gennaio, la smettano di parlare di accordi e anche, se vuoi, di parlare della legge elettorale, basta, fate una legge elettorale subito, teniamocela per i prossimi 20 anni e non cambiamo la legge elettorale una volta l'anno, e passiamo ai fatti. Visto che siamo in chiusura, Paolo, sui giornali hai trovato niente sull'altra grande passione, diciamo nostra, diciamocelo, è quella dei reali. Oggi mi pare che non ci siano grandi novità su Harry e Meghan. Purtroppo, infatti, i giornali oggi sotto questo profilo ci deludono, ci deludono un po', no? Ci deludono, no, ci sono varie storie, continuano, se vuoi, una coda, un'altra casa reale, continuano le polemiche, questo c'è perché i Savoia hanno deciso che la loro erede femmina possa essere nominata regina e infrangono la legge Sali, che è la prima volta, e quindi chi come me è deluso dalla mancanza cioè dal proseguimento in tempo reale della serie The Crown si può consolare col tono minore dei Savoia, si può consolare con le vicende di Casa Savoia e il ramo cadetto che protesta per questa decisione, ma è una magra consolazione, non va bene, sì, perché speriamo, non sono in carica, perché tra l'altro non sono in carica, tra l'altro, quindi va bene. Grazie, Paolo. Esatto. Grazie Paolo Mieli, ti ritroviamo ovviamente lunedì con all'interno dello spazio dedicato alla rassegna stampa. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo subito dopo GR24 con Maria Latella alle 8:20, e sì, parleremo, faremo anche un po' di accenni alla legge elettorale, inevitabilmente, perché il tema sicuramente del giorno è quello che allunga, come abbiamo detto, presumibilmente la vita alla legislatura. Poi parleremo anche di aziende, di imprese, lo faremo col sottosegretario Buffagna tra poco.